dire e fare, tra terra e mare, tra tutto quello che avrei da dire, sto qua a parlare d'amore. Tra dire e fare, tra bene e male, con tutto quello che avrei da fare, sto qua che penso solo a te. E tu lasciami fare, a me basta restare un po' di tempo a parlare insieme a te, solo a parlare. Non voglio fare l'amore, a me basta guardarti un po', guardare i tuoi movimenti. I pensieri per me che fanno rumore, e tu lasciami fare, a me basta restare un po' di tempo a parlare insieme a te, solo a parlare. Non voglio fare alle 18 e noi siamo qui presenti come ogni pomeriggio, Marco Tagliaboschi e Giuseppe Russo. Buonasera. Buonasera cari amici e cari amiche di Radio Ernica, eccoci di nuovo insieme. Bene, iniziamo il nostro approfondimento con l'informazione nazionale e locale. Vi ricordiamo che tra qualche minuto, forse tra una mezz'oretta circa, avremo un gradito ospite, il dottor Enrico Zuccaro, consigliere comunale di opposizione presso il comune di Supino, e giornalista e appassionato divulgatore storico di storia, e in particolare appassionato della storia della guerra, della resistenza e della storia dell'antifascismo. Ci intratterremo con lui sui temi inerenti appunto ai festeggiamenti del 25 aprile, la resistenza e alcune pulsioni revisionistiche che oggi purtroppo non si fanno non si fanno si fanno sentire molto in modo molto forte. Oh, su questo argomento, tra l'altro, visto che abbiamo aperto proprio su questo, bisogna dire che sul nostro sito c'è anche la rappresentazione fotografica e non solo dell'iniziativa di un gruppo variegato di persone che ieri ha inteso praticamente festeggiare il 25 aprile, visto che non c'è stato il solito omaggio al monumento in piazza Cavour, non c'è stato un manifesto del comune, non c'è stato alcunché praticamente per quanto riguarda il 25 aprile, loro hanno deciso di come dire, omaggiare il nostro monumento ai caduti. E quindi sul nostro sito www.radioernica.com troverete praticamente le fotografie, la descrizione di questa iniziativa. Bisogna anche ricordare che, diciamo, questa assenza dell'amministrazione comunale di Anagni in occasione del 25 aprile è ormai diventata una consuetudine da molti anni. Ormai, insomma, l'amministrazione comunale non intende, diciamo, commemorare in modo evidente la ricorrenza della liberazione dal nazifascismo. In compenso, però, ci sono appunto rappresentanti di questa amministrazione. Ricordiamo, ecco, le foto diffuse su Facebook dell'assessore Roberto Versi, che in realtà invece si lasciano ritrarre dinanzi al cospetto della cripta del Duce, intenti anche a onorare il Duce con tanto di saluto romano. Bene, noi parleremo di questo, anche di questo, diciamo, con il dottor Enrico Zuccaro, che tra l'altro domani diffonderà un volantino a supino, un volantino che stigmatizza il comportamento dell'assessore alla cultura del comune di Supino, governato dal centrodestra, che appunto in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, che invece a Supino si sono tenuti, insomma, presentato delle dichiarazioni, ha fatto un suo discorso di commemorazione che non ha tenuto presente assolutamente i partigiani, la resistenza, e che ha appunto invece parlato molto dei regolamenti di conti che ci sono stati all'indomani della liberazione della Repubblica, ma di questo parleremo dopo. Intanto, a proposito dell'amministrazione comunale, ancora sanguina, diciamo, la ferita inferta alla provincia di Frosinone dalla neoeletta presidente della giunta regionale Renata Polverini. C'è il centrodestra, in particolare il PDL, in rivolta per l'affronto, diciamo, subito dal centrodestra frosinate, che appunto si è visto passare davanti come in una sfilata gli assessorati che appunto sono piovuti sulle altre province e sui romani, ma assolutamente non sono stati, diciamo, non sono ricaduti su nessun eletto e su nessun personaggio della nostra provincia di Frosinone. E a proposito di amministrazione comunale, le dichiarazioni dei principali esponenti del centrodestra provinciale e locale oggi appaiono sulla seconda pagina del quotidiano Ciociaria Oggi, e c'è una stravagante dichiarazione del nostro sindaco, del sindaco di Anagni, Carlo Noto, che appunto parla di secessione, una secessione in salsa ciociara praticamente. A questo punto, dichiara il sindaco di Anagni, l'alternativa è di avviare un percorso di secessione che ci annetta poi ad un'altra regione. Sono sindaco eletto nel PDL, ma a questo punto devo esprimere a nome degli elettori che hanno fortemente sostenuto la coalizione anche in questa tornata elettorale la delusione e le speranze disattese dalle migliaia di persone che sono rimaste sbalordite dalle decisioni annunciate in questi giorni. Non essere rappresentati, a mio avviso, significa avere ben poca voce, e ciò non potrà che ripercuotersi negativamente sul nostro futuro, sul futuro di un territorio e di un'intera provincia. Certamente non si può restare a guardare. Quindi, ecco, il sindaco si mette a capo di un movimento secessionista, che magari possa portare spostarci in un'altra regione, forse nella progredita Campania, e abbiamo inventato ad Anagni la Lega Pummarola. Perfetto, ma ci sono anche le considerazioni, anche le dichiarazioni di altri due esponenti politici del PDL anagnino, Alessandro Cardinali e Marco Cesariti, rispettivamente consigliere con delega presso il Comune di Anagni, assessore provinciale alle opere pubbliche, e poi Marco Cesariti, presidente del Consiglio Comunale di Anagni. Siamo sbigottiti, sorpresi e amareggiati, affermano gli esponenti del PDL, e profondamente dispiaciuti per le speranze disattese dei cittadini e degli elettori, che ad oggi non hanno alcuna giustificazione né alcuna spiegazione da parte di chi ha deciso di estromettere la sociaria dall'esecutivo regionale. Ora dovrà essere la Polverini a giustificare davanti agli occhi di chi l'ha fortemente sostenuta la scelta di estromettere la sociaria dall'esecutivo, e a dover spiegare perché un intero territorio determinante ai fini elettorali non sia affatto rappresentato. Allo stesso modo i vertici dovranno motivare la corsa ai voti ciociari, ripagata con speranze disattese e aspettative stroncate per un intero popolo. Il popolo ciociaro per le migliaia di elettori che hanno contribuito e determinato la conquista della regione Lazio. Quindi queste le dichiarazioni degli esponenti anagnini del Popolo delle Libertà. Quindi insomma non viene assorbito assolutamente il colpo da parte dei nostri esponenti di centrodestra, insomma, riguardo a questa mancata nomina degli assessori. E naturalmente è chiaro che gli esponenti anagnini del centrodestra sono in prima fila in queste iniziative di contestazione, perché insomma l'assessorato che era atteso per la provincia di Frosinone sarebbe presumibilmente, prevedibilmente ricaduto su quello che è stato il principale eletto del PDL nella provincia di Frosinone, il secondo eletto nel Lazio, che è appunto il consigliere regionale anagnino Franco Fiorito. Bene, Marco, hai qualcosa da dirci? Sì, io cercavo veramente notizie su internet, però visto che hai preso questo argomento ti suggerisco anche quest'altra analisi, che invece parte dal Messaggero. Anche qui ci sono dichiarazioni. Allora, se vuoi continuare su questo, così io vedo di trovare una notizia di cui mi hanno dato conto su Repubblica IT. Beh, sì, bene, qui si parla, il Messaggero, nella pagina appunto nell'inserto dedicato alla provincia di Frosinone, parla appunto di una marcia su Roma per un assessorato. Beh, insomma, si potrebbe commentare così: il lupo perde il pelo ma non il vizio. Oggi il presidente della provincia e gli amministratori avrebbero incontrato la Polverini. Chi chiede la secessione della regione Lazio, dice Denise Compagnone sul Messaggero, chi si fascia il braccio al lutto e chi va a Roma con i colleghi a pretendere rispetto dalla Polverini. Il PDL di Frosinone alla riscossa. Questa mattina alle 10 dal piazzale della provincia un corteo di automobili partirà verso Roma. Naturalmente è chiaro, noi leggiamo la notizia di questa mattina e presumibilmente questa iniziativa penso che si sia già conclusa a quest'ora. Obiettivo Pisana, per chiedere a Renata Polverini perché abbia preferito logiche romanocentriche, escludendo ogni rappresentante della provincia di Frosinone dall'esecutivo regionale nominato domenica scorsa. Sembra di ascoltare degli esponenti padani con queste dichiarazioni, e quindi ottenere, appunto, il motivo e la finalità è ottenere un riequilibrio dei rapporti di forza tra le province e Roma. Semplicemente le diremo che siamo veramente stufi di questo trattamento che offende la dignità dei ciociari, ha detto ieri Antonio Salvati, portavoce di Iannarilli. La nostra non è solo una protesta, ma da oggi inizia un percorso fatto di una serie di iniziative che deve portare al riconoscimento dell'identità dei territori dal punto di vista politico ed istituzionale. Consiglieri, assessori provinciali e una rappresentanza dei sindaci del PDL, così oggi in marcia su Roma, ai quali si aggiungerà direttamente a Roma lo stesso Antonello Iannarilli, chiederanno al presidente della Regione Lazio di rivedere le deleghe e gli incarichi. Come pensano di farlo? Chiedendo uno dei due posti riservati all'UDC? Sul come fare questi riequilibri ci penserà lei, ha risposto Salvati, riferendosi alla Polverini. Non ci aspettiamo soltanto che mantenga fede alle sue promesse in campagna elettorale. Qui il problema della rappresentanza è dell'intera provincia. Riguarda tutti, a prescindere dalle colorazioni politiche. Se i sindaci del centro-sinistra intendono unirsi a noi, sono i benvenuti. E è l'invito di Salvati questo. Al momento comunque non risulta un'adesione da parte degli amministratori del centro-sinistra. L'unità del territorio contro le scelte romanocentriche è un pensiero comune. La pensano così anche il sindaco di Anagni Carlo Noto e l'assessore provinciale Massimo Ruspandini. Sul primo noi abbiamo già riferito e appunto riporta la stessa notizia anche il Messaggero. Ma riportiamo anche la notizia di Massimo Ruspandini, che appunto interviene sulla stampa, anche su Ciociaria Oggi. Leggiamo quello appunto che dichiara, e leggiamolo dal Messaggero. Massimo Ruspandini interroga i suoi colleghi di tutti gli schieramenti. Sono pronti molti ciociari di destra e di sinistra che devono tutto ai padrini di Roma a cacciare gli attributi? Me lo auguro. Se così sarà, saremo meno soli anche all'interno del mio partito a combattere per l'identità e per la ciociaria, che nulla deve elemosinare alle politiche romanocentriche. Benissimo, insomma, se era Massimo Ruspandini, ma sembrava appunto Calderoli. Dunque, mi sembra di aver letto prima su qualche sito, non so Marco se lo vogliamo riprendere, una dichiarazione di Stefania Craxi sul 25 aprile, che appunto lancia un appello: adesso commemoriamo anche Piazzale Loreto. Stefania Craxi, niente meno. Ma vediamo un attimo se riusciamo a ritrovare questa dichiarazione. Intanto noi abbiamo qui con noi questa sera, intanto è arrivato Aurelio Tagliaboschi qui nei nostri studi e lo salutiamo, ma abbiamo anche nei nostri studi un'altra presenza gradita, che è Salvatore Aresti, responsabile dei Giovani Democratici Anagnino, e lo vogliamo un po' sollecitare come giovane sui temi relativi al 25 aprile. Ecco Salvatore, innanzitutto buonasera e ciao, anche un saluto anche da parte di tutti le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Senti Salvatore, ma di fronte a queste polemiche che montano ogni anno e che stanno crescendo quest'anno sul 25 aprile, sulla resistenza, sui temi relativi all'antifascismo, alla guerra civile, per un giovane che importanza può rivestire questi scambi di opinioni, questo dibattito? Che importanza ha per un giovane affrontare questi temi che in fondo riguardano la nostra memoria storica? Intanto ringrazio voi e i radioascoltatori. Credo che sia un dato molto importante. Questi avvenimenti non fanno parte solo della storia del nostro paese, ma credo che sia la base della cultura del nostro paese. Non dovremmo neanche stare qui a discutere su questi eventi che purtroppo hanno segnato la nostra storia. Quindi credo che sia superficiale denunciare un po' di ipocrisia, un po' di ignoranza nel nostro paese, che si vuole dimenticare e si fa di tutto per non ricordare questi eventi. Bene, ci fermiamo. C'era Aurelio Tagliaboschi che appunto era appena arrivato e ci voleva dare una notizia, un commento. No, buon pomeriggio a voi amici ascoltatori, buon pomeriggio a voi ragazzi che conducete questa trasmissione del pomeriggio. Grazie per ragazzi. Ragazzi, era sottointeso questo chiaramente, perché oggi devi sapere, caro Giuseppe, è il 28 di aprile. Ed è una ricorrenza molto particolare per un certo signore che è seduto dalla parte di là. Ahimè sì. Non vado avanti. Allora, ben 47 lune, ecco. Però torniamo alla questione seria. Noi nel pomeriggio siamo stati testimone della posizione di una corona d'alloro al monumento dei caduti qui in piazza Cavour da parte di alcuni cittadini. La notizia l'avete data, però non è questa la notizia che io voglio darvi. Nell'esaminare le nostre varie schede tecniche degli accessi sul sito di radioernica.com, su questa pagina, che è la pagina dedicata a questo evento, dove ci sono una decina di fotografie e un breve articolo che Francesco Cecconi ieri sera ha curato personalmente, E la messa in onda di queste immagini sul sito di radioernica.com è avvenuta ieri sera intorno alle ore 20. Da ieri sera alle ore 20 fino a questa mattina intorno alle 10 ci sono stati 483 accessi su questa pagina. Quindi, per farvi il raffronto della situazione, sulla pagina relativa alla vicenda della questione del Carflaff e della manifestazione, delle riprese di quella manifestazione e degli interventi che si sono succeduti in quel contesto sabato pomeriggio, su quella pagina ci sono stati 530 accessi. Quindi l'importanza di questo 25 aprile, della resistenza e di questo tipo di argomento è così esteso, tanto e tale, che alla fine già quella esposizione di foto avvenuta così in maniera neanche tanto pubblicizzata da parte della nostra emittente, l'abbiamo appena detto in trasmissione ieri, un breve cenno in diretta nel pomeriggio, dalle 20 alle 11, alle 10.30, 11 di questa mattina ha avuto un accesso impensabile, quindi penso già da questo si possa arrivare ad una determinazione sull'importanza di quello che stiamo dicendo. Ho concluso. Bene, sì. Allora io per continuare, tanto per gradire, risentiamo la lite tra Bondi e Di Pietro ieri sera a Ballarò. Nel conflitto di interessi. No, lei lo mangia. Lei ha solo mangiato. Lei ha solo mangiato. Sul piano giudiziario, egli sta facendo il Presidente del Consiglio e il capo della maggioranza parlamentare solo ed esclusivamente per farsi legge ad persona che gli serve per lei non mente, farsi processare. Lei sta mentendo. Terzo, sul piano lei della comunicazione. Mentendo, ci lei sono, sta mentendo. Lei è un mentitore. Sul piano elettorale lei è un mentitore. Ha tre lei è un mentitore per professionista. E perché ha il controllo della non RAI non ha titolo di parlare di per moralità. Per questa ragione egli ha un monopolio dell'informazione che esiste in Italia. È come dare il conflitto di lei è la persona sul piano immorale. Sky Mediaset, no, è una persona perché immorale, è insieme no, a Media, non insieme alla RAI ha realizzato TV Sat e TV Sat serve per avere il monopolio sul piano dei decoder perché ha dato un finanziamento alla società del fratello per avere il decoder all'Italia sul piano dei canali Sky, sul piano alla fine di Europa 6 per N4 perché si è fregato N4 pagando una tangente, pagando una tangente Oliverian a Craxi e si è preso e ha dovuto far pagare allo Stato italiano una multa all'Europa immorale, ci vergogni. Antonio Di Polina per il nostro Fuori Onda. Questa era la lite di ieri sera, caro Peppe, a Ballarò. Sì, sì, ho seguito ieri la trasmissione Ballarò. Beh, un comportamento da manuale da parte del ministro Bondi, che ha seguito appunto le istruzioni che tutti, diciamo, i rappresentanti del PDL seguono quando appunto si trovano a dover sostenere un dibattito e si trovano di fronte ad interlocutori che rilasciano dichiarazioni scomode. La regola in genere, pensiamo che sia proprio un manuale, perché in genere si comportano tutti così. Quando è il momento giusto incominciano, diciamo, a buttarla in caciara, a sovrapporsi ai loro interlocutori, e così che i telespettatori o i radioascoltatori, a seconda delle situazioni, non capiscono più niente. Allora. Bene, prima della pausa, sì, pubblicitaria, c'è appunto Salvatore che ci voleva dare una notizia molto interessante. No, dato che vogliono smorzare le polemiche che stanno succedendo all'interno del centrodestra, credo che pochi minuti fa è successo che in un emendamento sul lavoro presentato dal Partito Democratico, dove la maggioranza si era espressa in maniera negativa in questi giorni, è riuscito a passare 225 sì contro 224 no. Per una maggioranza che ha più di 100 parlamentari di maggioranza, insomma, credo che sia un dato politico molto molto importante. Sì, l'emendamento era tra l'altro sulle problematiche del lavoro e relativamente a quella norma che praticamente individuava all'esterno, in soggetti terzi alla magistratura, la possibilità di attivare un lodo tra le parti. La cosa interessante è che a quanto pare sembra che i parlamentari finiani non si siano presentati al voto, quindi anche questo è interessante. Esattamente, questo potrebbe dirla lunga anche su quello che sarà il percorso parlamentare di alcune leggi, se eventualmente queste non verranno, come dire, discusse all'interno del PDL e se non verranno accettate da quella che ormai si definisce una minoranza interna. Sentiamo Gianfranco Fini sull'inno del PDL, quello che dice: meno male che Silvio c'è. Sentiamo se riusciamo a sentirlo. Lei che ne pensa del fatto che l'inno del suo partito è meno male che Silvio c'è? Beh, è evidente che è un inno che non mi... Eh sì, noi facciamo i conti senza l'oste però, perché praticamente le linee evidentemente in questo momento non sono particolarmente funzionanti e quindi non riusciamo, vediamo se riusciamo a riprenderlo questo spezzone, altrimenti andiamo avanti e poi magari ci riproviamo più tardi. No, non riusciamo, c'è un blocco sulle linee internet e quindi non riusciamo a scaricare. Allora va bene, mettiamolo un attimo da parte questo discorso, facciamo una scelta musicale e andiamo avanti. Sembra fatto apposta questo brano perché è Simone Cristicchi che dice: meno male, non meno male che Silvio c'è però, eh. Pensare cose negative, la gente vuol godersi in pace le vacanze estive. Ci siamo rotti il pacco di sentire che va tutto male, della valanga di brutte notizie al telegiornale. C'è l'Italia paese di santi, pochi idraulici, troppe badanti. C'è l'Italia paese della libertà, egalité e del gioca giue. C'è l'Italia se desta, ma c'è, dipende dai punti di vista. C'è la crisi mondiale che avanza, i terremotati ancora in vacanza. Ma meno male che c'è Carla Bruni. Siamo fatti così, salgo o non sar così, che bella Carla Bruni. Se si parla di te, il problema non c'è. Io rido, allora facci cicco con soldi e corda sul tono. C'è l'Italia dei video ricatti, c'è la nonna coi seni rifatti. Vissero tutti felici e contenti, ma disinformati sui fatti. Osame ancora latitante, l'ho visto ieri al ristorante. Lo so che voi non mi credete, se sbaglio mi correggerete. Ma meno male che c'è Carla Bruni. Siamo fatti così, salgo o non sar così. Che bella Carla Bruni. Se si parla di te, il problema non c'è. Io rido. Bene, allora eccoci qui di nuovo insieme, stiamo organizzandoci per la diretta perché abbiamo in questo momento un ospite che è molto gradito qui nei nostri studi e quindi ci stiamo un attimo organizzando. Allora, mandiamo ancora un altro pezzo musicale, anzi mandiamo uno stacco pubblicitario, così finiamo di organizzare il tutto. Abbiamo il piacere di avere i nostri studi Enrico Zuccaro, adesso parleremo anche dei suoi libri e di quanto lui sia legato anche al 25 aprile, visto che fino a pochi minuti fa abbiamo parlato di questo. Mm-hmm. da qualcuna ed abbiamo capito per bene il termine insieme, mentre il sole alle spalle pian piano va giù. E quel sole vorresti non essere tu. E così hai ripreso a fumare, a darti da fare, è andata come doveva, come poteva. Quante briciole restano dietro di noi. O brindiamo alla nostra, o brindiamo a chi vuoi. L'amore conta, l'amore conta. Conosci un altro modo per fregar la morte. Nessuno dice mai se prima o se poi. E forse qualche Dio non ha finito. Ci siamo tolti le voglie, ognuno i suoi sbagli. È un peccato per quelle promesse, oneste ma grosse. Ci si sceglie per farselo un po' in compagnia. Questo viaggio in cui non si ripassa dal via. L'amore conta, l'amore conta. Gli anni a chi non è mai stato pronto, nessuno dice mai che sia facile, forse qualche Dio non ha finito con te. Grazie per il tempo pieno, grazie per la te più vera, grazie per saluto di nuovo a voi ascoltatori di Radio Ernica, un saluto naturalmente a tutti voi, tra poco andiamo in diretta e registrata sul nostro sito internet. Benissimo, buonasera a tutti, e siete sintonizzati su Radio Ernica, lo dicevo un attimo fa, in diretta in FM e in registrato per radioernica.com. Vi avevamo detto che avremmo avuto un ospite questa sera molto gradito, Enrico Zuccaro, che salutiamo e ringraziamo di aver accettato il nostro invito, e credo che questo invito sia stato proprio, come dire, sia caduto in un momento particolarmente indicato, cioè parlare delle vicende che riguardano la Seconda Guerra Mondiale con una persona che si è molto impegnato, ha studiato molto su questo argomento, e in un momento dove si parla di 25 aprile e anche di revisionismo del 25 aprile, che spesso significa amministrazioni che non hanno tributato alcun onore ai caduti, come è avvenuto qui ad Anagni e come è avvenuto in altre realtà. C'è stato il caso eclatante anche della provincia di Salerno, se non sbaglio, che addirittura ha fatto un manifesto completamente, come dire, fuori da quello che è il seminato. Quindi credo che sia un argomento questo di oggi molto molto appropriato. Quindi, allora ringrazio ancora Enrico di aver partecipato a questa iniziativa. Io ho partecipato anche personalmente alla presentazione di uno dei suoi libri in una splendida serata realizzata a Supino con una foltissima delegazione di cittadini di quel paese. Lascio a Giuseppe la conduzione di questa intervista. Bene, eccoci di nuovo insieme, cari amiche e cari amici di Radio Ernica, e benvenuti a tutti gli amici di www.radioernica.com per questa video diretta di questa sera. Bene, è un particolare piacere per me presentare Enrico Zuccaro, un amico e un collega. Lui è nato a Supino, dove tuttora risiede, è laureato in legge ed abilitato all'esercizio della professione forense, e infatti svolge la propria attività presso l'ufficio legale di una banca anagnina. È un giornalista, è un pubblicista e collaboratore del quotidiano Il Tempo. È un appassionato divulgatore di storia, in particolare della storia della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza, e quindi è molto diciamo informato e approfondisce da anni ormai i temi relativi al fascismo e all'antifascismo. Ha appunto pubblicato due suoi libri. Il primo, che risale al 2005, che è intitolato Argento sulle dune. Il secondo, pubblicato lo scorso anno, intitolato I miei passi, la mia vita. Tutte queste storie dedicate appunto a la biografia, ad alcuni anche racconti che ha estrapolato appunto ascoltando le testimonianze di un suo parente, dello zio Oscar Zuccaro, che è stato carrista nel periodo appunto del ventennio fascista. Allora Enrico, vuoi presentarci innanzitutto queste tue due fatiche? Innanzitutto grazie alla redazione di Radio Ernica, un saluto a tutti quanti gli ascoltatori, alle ascoltatrici e un cordialissimo buonasera. I libri, Peppe, li hai già presentati tu, sono appunto Argento sulle dune del 2005 e I miei passi, la mia vita dello scorso anno. Sono due libri per così dire complementari, perché il primo introduce, dopo averlo contestualizzato nel quadro storico di riferimento, il racconto di vita, diciamo di vita militare, di mio zio Oscar, che saluto caramente questa sera, che è medaglia d'argento al valor militare, vivente, e ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale in Tunisia nella primavera del 1943. Riportandone pure ferite molto gravi e distinguendosi nel corso di un combattimento con carri armati americani che gli è valsa appunto la medaglia d'argento al valor militare. Il secondo libro, I miei passi, la mia vita, è il racconto di tutta la vita di zio Oscar, che si proietta poi nella storia del mio paese nativo, dove tuttora risiedo, che è appunto Supino. Quindi I miei passi, la mia vita, sono il quadro storico della Supino dal 1922 fino praticamente alla Seconda Guerra Mondiale, alla Liberazione e quasi per così dire ai giorni nostri. Questo in sintesi estrema quello che è il contenuto dei due libri. Ecco, sì, grazie Enrico. Vogliamo ricordare anche alle nostre amiche e ai nostri amici di Radio Ernica che Enrico Zuccaro è anche consigliere comunale di opposizione presso il comune di Supino. Lo diciamo perché questa informazione ci servirà dopo e capirete perché. Ma veniamo subito all'argomento della serata, l'argomento per il quale abbiamo appunto voluto questa conversazione con Enrico, che ringraziamo per la sua presenza. Il 25 aprile è una data importante per il nostro paese, ma ormai da troppo tempo questa ricorrenza non è riconosciuta da tutti gli italiani, o forse è riconosciuta in modo un po' forse contrapposto, no? Con visioni che a volte sono contrapposte. Abbiamo appunto ricordato dei fatti che hanno, diciamo, caratterizzato, hanno, diciamo, riempito le cronache nazionali. Ricordiamo anche le forti contestazioni subite a Milano dal sindaco Moratti e dal presidente della provincia Podestà da parte di un gruppo di autonomi, e anche le contestazioni che ha appunto dovuto sopportare Renata Polverini, neoeletta presidente della Regione Lazio, difesa dal presidente democratico del Partito Democratico della provincia di Roma, Nicola Zingaretti, che insomma ha dovuto sopportare anche una, diciamo, una violenza che fortunatamente non gli ha provocato nessuna conseguenza, un oggetto, diciamo, che gli è stato tirato sul volto. Bene, Enrico, noi vogliamo un po' parlare con te di questa ricorrenza. Che importanza ha oggi, perché è ancora di attualità oggi, il 25 aprile, questa ricorrenza? E per quale motivo noi dobbiamo ancora celebrarla con entusiasmo, forse anche rinnovato? E poi, Enrico, ma questo 25 aprile segna la fine di una guerra civile o di una guerra di liberazione? Allora, intanto sgombriamo scusate, sgombriamo il campo da un potenziale equivoco. Chi il 25 aprile dà segni di intolleranza, chi manifesta la propria intolleranza verso l'avversario politico o comunque verso una persona che a suo parere non condivide così come lui determinati ideali, del messaggio della resistenza, secondo me, non ha capito nulla. Quindi vanno condannati senza mezzi termini, vanno condannate senza mezzi termini quelle manifestazioni deprecabili che ci sono state a Milano nei confronti del sindaco Moratti, così come a Roma nei confronti della presidente della regione Renata Polverini. L'importanza del 25 aprile, perché il 25 aprile deve essere ricordato, deve essere celebrato. Il 25 aprile va celebrato perché è un evento fondante della nostra Repubblica. Se oggi siamo qui tranquillamente dentro questa radio, se nell'etere stanno tranquillamente spaziando le nostre opinioni, lo dobbiamo a chi 65 anni fa, se non vado errato, ha imbracciato le armi, è andato in montagna o è rimasto nelle città a contribuire alla caduta del regime nazifascista. Quindi il 25 aprile è una data di importanza, ripeto, capitale nella nostra storia. E così come accade in altre realtà, dove ad esempio negli Stati Uniti ogni anno il 4 luglio è festa nazionale, in Francia il 14 luglio altra festa nazionale, e si parla di feste che risalgono niente di meno che al 700, quindi a qualche secolo fa, e vengono ancora celebrate con molto entusiasmo. Con lo stesso entusiasmo noi dovremmo celebrare il 25 aprile, proprio per l'importanza di cui dicevo un attimo fa. Mi pare che tu mi abbia fatto poi la domanda relativa al 25 aprile come termine di una guerra civile, come lotta di liberazione, di una guerra di liberazione. Il discrimine storico su questi avvenimenti diventa difficile soprattutto per chi come me è un divulgatore, quindi non fa lo storico di professione, e di fronte a chi invece ha dedicato la propria vita allo studio di questi problemi rischia di fare perlomeno, insomma, una figura barbina. Indubbiamente in Italia, in quei mesi, nei mesi che vanno dal settembre del 1943 all'aprile del 1945, la guerra civile c'è stata. C'è stata perché una parte d'Italia ha inteso continuare a seguire quello che era stato il messaggio del fascismo. Anche la Repubblica di Salò, diciamo l'ultima scaturigine, il post-scritto storico, come viene chiamato da alcuni addetti ai lavori, non possiamo negare che abbia avuto un proprio consenso. Questo senza ombra di dubbio. Quindi secondo me c'è stata la lotta, la guerra civile. Così come però c'è stata una guerra di liberazione. È fuor di dubbio che chi ha combattuto indossando la divisa di Salò non ha combattuto perché in Italia si riaffermassero di nuovo gli ideali di libertà e gli ideali di democrazia. Questo, secondo me, è fuor di dubbio. È un dato storico da cui non possiamo prescindere. Poi possiamo studiare, fin nei minimi particolari, quella che è stata appunto la storia della Repubblica di Salò, quello che ne è stato l'operato, quella che è stata la gestione giornaliera di un territorio piuttosto vasto ed in condizioni estremamente problematiche. E questa, sotto alcuni punti di vista, credo che sia una storia, se non tutta da scrivere, ma ancora oggi da approfondire. Però la linea il discrimine è chiaro. Chi è andato in montagna o chi è rimasto nelle città a combattere i nazifascisti ci ha ridato la libertà, ci ha ridato la democrazia. Questo è fuor di dubbio. Sì, e veniamo a ricordare, diciamo, ricordiamo adesso la resistenza, questo fenomeno che appunto noi ricordiamo anche con il 25 aprile. C'è una grossa, meglio, una grossa opera di revisionismo, ci sono dei tentativi revisionistici da parte di molti oggi che puntano un po' anche l'indice su questo fenomeno della resistenza. Innanzitutto si dice che la resistenza non è stata importante ai fini della liberazione del nostro paese, cioè che il nostro paese è stato liberato dalle truppe alleate, cioè dagli angloamericani in particolare, insomma. Che appunto la resistenza è stato un fenomeno che comunque non ha inciso, a detta di costoro, sulla liberazione del nostro paese. Poi si parla anche di una resistenza che nasce da un tradimento, si dice appunto ancora da parte di alcuni revisionisti, cioè la resistenza e la guerra civile nasce dal tradimento del governo italiano nei confronti dei tedeschi, che erano alleati degli italiani e che improvvisamente ma non proprio, in particolare dopo il drammatico bombardamento del quartiere di San Lorenzo a Roma, improvvisamente appunto destituirono Mussolini e lo appunto che venne appunto poi recluso presso il Gran Sasso e appunto si allearono improvvisamente con quelli che erano stati nemici di sempre, con gli anglo-americani. Questa appunto l'altro argomento che viene utilizzato per dimostrare appunto queste tesi. Quindi vediamo un po' intanto di vedere. Una terza obiezione, si cerca un po' anche di smontare la resistenza come fenomeno unitario, parlando soprattutto di quello che è avvenuto all'indomani della liberazione. Si parla di resistenti rossi, cioè di resistenti legati alle ideologie comuniste, e di resistenti invece legati ad altre contesti politico-culturali, alcuni partigiani, la resistenza cattolica, la resistenza, i partigiani bianchi, così venivano chiamati, e gli azionisti, che appunto avrebbero subito delle violenze da parte, appunto, all'indomani della liberazione, da parte appunto dei partigiani legati al Partito Comunista. E quindi si tenta anche di smontare la resistenza come un fenomeno unitario di liberazione. Cosa risponde Enrico Zuccaro a queste tesi? Allora, la tua domanda ne contiene, credo, 7-8. Io ho preso appunti, cerchiamo di fare un minimo di ordine. Allora, il revisionismo storico. Personalmente non ho alcun timore del revisionismo, di alcun tipo di revisionismo. Non ricordo il nome di quello storico che ha detto che i problemi non cessano di esistere se non se ne parla. Quindi è giusto che anche la resistenza sia, per così dire, passata al setaccio, e se ci sono, come ci sono state, zone grigie, è importante che queste zone grigie vengano, per così dire, illuminate al meglio, vengano analizzate, studiate e, se possibile, vengano individuate le responsabilità di chi si è reso, di chi si è macchiato di crimini o di chi comunque ha approfittato di quel, del clima di guerra civile per portare a compimento proprie vendette personali. Quindi ben venga il revisionismo allorché contribuisce a dare maggior luce, a gettare maggior luce su alcuni aspetti della resistenza. Ma il revisionismo non potrà mai cancellare quella che è stata anche l'importanza militare della resistenza. E quello che sto affermando posso tranquillamente sottoscriverlo, perché so essere suffragato da una messe di studi e di conferme a livello non solamente orale ma soprattutto documentale. Ti cito alcuni dati che io in questi giorni ho rispolverato perché a supino si è evidenziata una certa un minimo di polemica storico-politica che sicuramente avrà pure delle conseguenze nei prossimi giorni. Allora, i partigiani caduti in combattimento sono 35.828, i mutilati e gli invalidi della lotta di liberazione sono 21.168, 9.980 sono i civili uccisi per rappresaglia dai nazifascisti, e ci riferiamo al periodo 43-45. Sono 32.000 i resistenti italiani caduti all'estero, per la maggior parte ex soldati, che in Jugoslavia, in Francia, anche in quella che sarà nella Repubblica Cecoslovacca, sono usciti dai campi di prigionia e si sono uniti ai partigiani. Sono 16.176 i militari italiani morti nei lager tedeschi, e questi ragazzi sono morti perché si sono rifiutati di indossare le divise della Repubblica di Salò. Sono 40.000 gli uccisi tra deportati politici ed ebrei italiani, e sono 10.000, e troppo spesso vengono dimenticati, i soldati italiani caduti a fianco degli alleati. Erano i membri del cosiddetto CIL, il Corpo Italiano di Liberazione, che iniziò a combattere a non molta distanza, a molti chilometri da qui, a Mignano di Montelungo, e poi risalì l'Italia insieme con gli alleati. Adesso sarebbe anche imbarazzante fare un conto, insomma una contabilità potrebbe anche risultare sgradevole, ma qui si parla di migliaia di morti, si parla di migliaia di ragazzi e di ragazze, perché la resistenza l'hanno fatta anche le donne, che poi saranno chiamate a recitare un ruolo attivo nella vita politica italiana, perché avranno il voto solamente nel 46. Quindi si tratta di migliaia di ragazzi e di ragazze che hanno sacrificato la loro vita ed hanno dato un contributo fondamentale, riconosciuto anche dagli alleati. Per chi volesse approfondire, consiglio un libro di un ottimo storico inglese che si chiama Holland, è stato pubblicato dalla Longanesi lo scorso anno e si intitola L'anno terribile. Un libro tra tanti che sottolinea l'importanza militare della resistenza. Nel momento in cui un esercito ha le retrovie insicure, perché il partigiano non combatte una guerra aperta, la cosiddetta guerra guerreggiata, il partigiano è un guerrigliero, il partigiano è chi applica la strategia del mordi e fuggi, è chi difficilmente ingaggia la battaglia campale. Eppure ci sono stati casi, soprattutto nel momento in cui si stava sfondando la linea gotica, in cui i comandi alleati hanno schierato in settori di fronte intere brigate partigiane. Sono cose che non possiamo dimenticare. Dimenticarle sarebbe la colpa più grave, sarebbe un'offesa, ripeto, a quei ragazzi e a quelle ragazze che hanno dato la loro vita per ridarci la libertà e la democrazia. Veniamo un attimo al cosiddetto tradimento. Ma parliamoci chiaramente, qui gli studi giuridici ci possono, per così dire, supportare. Parliamoci chiaramente. Scusami, Enrico, in questo, affrontando questo argomento, ti volevo anche diciamo, aggiungere un'altra suggestione che ci viene appunto oggi proposta. La nascita della Repubblica di Salò, quindi il tradimento dei Badogliani, diciamo, e la nascita della Repubblica di Salò, che praticamente sarebbe stata accettata e promossa da Mussolini per salvare l'Italia dalla distruzione dell'esercito tedesco, diciamo, che voleva appunto vendicarsi di questo tradimento italiano. Ecco, scusami l'interruzione, ma mi sembrava importante aggiungere anche questo. Cercherò di rispondere pure a questa domanda, ma stiamo mettendo molta carne al fuoco, auguriamoci di non annoiare gli ascoltatori. Ritorniamo un attimo al tradimento. Il fascismo cade perché il Gran Consiglio del Fascismo, nella notte tra il 24 ed il 25 luglio, sfiducia Mussolini. Il re, che secondo lo Statuto Albertino, quindi la Costituzione vigente in quegli anni, è a capo della macchina statale dell'Italia d'allora, fermo restando che durante la dittatura si è instaurata una sorta di diarchia, riprende i poteri tra le mani e nomina un altro governo. Il governo legittimo, quindi, non era più il governo di Mussolini, ma era il governo che il re aveva inteso formare incaricando il maresciallo Badoglio. Non a caso, perché ho fatto richiamo agli studi giuridici, perché in uno dei testi sacri della storia costituzionale italiana, il testo di Ghisalberti, non viene spesa una parola sulla Repubblica di Salò, né tantomeno per indicare una sorta di continuità statale tra il governo di Roma e la Repubblica di Salò. Lasciamo stare poi la vicenda depregabile ed assurda della monarchia che scappa, che fugge, va ad Ortona, ruba quasi praticamente, ho usato un termine forte, litiga sul molo tra generali e dignitari del re per scapparsene al sud in braccio agli alleati, lasciando Roma in balia dei tedeschi. Questo è un aspetto diverso, ma non possiamo parlare di tradimento. Voglio poi ricordare un'altra cosa, che non è stata solo l'Italia in quegli anni a cambiare fronte, anche altri stati europei, altre nazioni europee. Chi ha un minimo di pratica di letture storiche saprà che la Finlandia fece una cosa analoga. E allora noi ci siamo attirati la taccia dei traditori, i finlandesi no. E questa secondo me è una cosa assurda. Poi, per chi volesse ancora approfondire, c'è un libro sul tema, il libro di Eric Hubi, Il tradimento tedesco, in cui questa tesi del tradimento viene completamente rovesciata, anche perché la Germania praticamente ha dichiarato guerra alla Polonia senza dirci niente, ha optato per decisioni belliche di fondamentale importanza senza mai avvertirci. Quindi questa del tradimento è tutta anche questa qui è una diceria che va, per così dire, smontata. Prima di rispondere alla domanda relativa all'unitarietà o meno del fenomeno resistenziale, perché tu me ne hai poste tante, mi hai sollecitato sullo stato di necessità, sulla tematica dello stato di necessità. Mussolini che ritorna, che non più intenzionato a tornare in politica, una volta liberato dai tedeschi, vola dapprima a Vienna, poi a Monaco, e da Monaco decide di non appena verrà poi da Monaco messo a contatto con Hitler, decide di vestire i panni di capo della Repubblica di Salò. Questa tesi dello stato di necessità, che è molto cara ad una pubblicistica storica, soprattutto di destra, è anch'essa una tesi opinabile. Indubbiamente non si può escludere su due piedi che la presenza di un governo italiano abbia forse frenato le rappresaglie tedesche. Ma, e qui cito Pino Romualdi, che è stato vice segretario del Partito Fascista Repubblicano, nonché autore di un libro illuminante su Salò, che è Fascismo Repubblicano, e che io consiglio di leggere a tutti, sia perché Pino Romualdi era un giornalista di vaglia, non era uno sprovveduto, sia perché è proprio illuminante, sia perché, a mio modesto parere, se si vogliono conoscere i fenomeni storici, bisogna conoscerli dall'interno, ascoltando la voce dei protagonisti. Chi legge Fascismo Repubblicano, praticamente in tutte le pagine di quel libro trova questo messaggio. Chi comandava Salò erano i tedeschi. La Repubblica di Salò versava un indennizzo miliardario, si parla di miliardi di allora, per indennità di occupazione. I tedeschi l'hanno fatta da padrone, nel vero senso del termine. Non avrebbero mai potuto fare dell'Italia quello che hanno fatto in Polonia. Perché? Perché il polo industriale del nord, il triangolo Torino, Milano, Genova e tutto l'interland industriale di questi grandi poli di concentrazione aziendale erano necessari, indispensabili ai tedeschi per il loro sforzo bellico. Quindi non si poteva fare strage incondizionatamente. E poi, parliamoci chiaro, insomma, 9.980 civili morti non sono pochi. Enrico, scusami, io volevo un attimo tornare su un argomento che nella discussione è emerso, diciamo. Si è parlato, si parla spesso dei libri del famoso giornalista di cui adesso mi sfugge il Gianpaolo Panza, che praticamente ha un po', come dire, fatto una serie di libri su questo argomento, parlando di quello che secondo lui è stato, come dire, un eccesso, un abuso, un accanimento, diciamo, dei cosiddetti dei partigiani nei confronti degli ex fascisti. Ecco, quello che volevo chiederti è se ci sono notizie, diciamo, storiche, non di parte chiaramente, su questo fenomeno nella sociaria. Parto da una rappresentazione locale di Anagni. Ecco, noi sappiamo, perché storie conosciute che ci sono state tramandate dai nostri genitori, dai nostri nonni, che in quel periodo effettivamente ci sono stati degli omicidi qui ad Anagni. C'è stato il caso eclatante di un gruppo di giovani che praticamente nel periodo subito dopo il fascismo andava a rimuovere le effigi del duce per Anagni. Ci fu una persona molto nota, di cui non faccio il nome, padre di una famiglia di commercianti di Anagni, che si affacciò per riprendere questi ragazzi, e questi ragazzi spararono e lo uccisero. Ovviamente poi riuscirono, tra virgolette, a farla franca per la famosa amnistia di Togliatti. Ci fu il caso poco dopo Portacere, tra l'altro poco vicinissimo alla sede diciamo della vostra attività lavorativa, nei pressi di quella zona di Portacere, ci fu il caso di un ex fascista, di un ex militante fascista che fu ucciso. Lui era seduto proprio lì in una di quelle porticine che si affaccia sul corso e fu praticamente ucciso da un partigiano che era stato picchiato spesse volte da questa persona. Quindi alcuni casi sono filtrati, diciamo, come memoria che è stata tramandata alle nostre orecchie. Ecco, la domanda è: nella sociaria, in supino, dove è stata presente la resistenza, i partigiani, effettivamente ci sono casi di questo genere e di che entità? Allora, anche Marco mi ha rivolto parecchie domande, io cerco di andare per ordine. Allora, i libri di Gianpaolo Panza. Allora, intanto stiamo parlando senza riserva alcuna di uno dei mostri sacri del giornalismo italiano. Gianpaolo Panza è un giornalista di grandissimo valore, non che certo non ha bisogno della modestissima conferma di chi, per questo non ha bisogno della modestissima conferma di chi vi sta parlando. Panza è anche però uno specialista, non ce lo scordiamo. In che senso? Panza fece la sua tesi di laurea sull'esercito di Salò, tant'è vero che da questa tesi poi, opportunamente ampliata, perché lui ebbe una borsa di studio, venne fuori il primo libro di Giampaolo Panza, che è il gladio e l'alloro, che erano appunto i simboli della, il gladio era il simbolo della Repubblica di Salò. Giampaolo Panza ha scritto degli ottimi libri documentati, scritti benissimo da par suo, si è attirato qualche rampogna degli storici professionisti perché nei libri Panza non cita le fonti, lui racconta quello o che gli è stato raccontato, quello che ha trovato scritto, quello che è riuscito a raccogliere. Però attenzione, non si può leggere su questo tema, con Peppe ci siamo già intrattenuti in altre circostanze, non si può leggere Il sangue dei vinti senza prima aver letto Le notti dei fuochi, che rievoca il clima della instaurazione della dittatura, dell'affermarsi violento del fascismo anche come reazione a certe violenze perpetrate dal movimento operaio nel periodo della cosiddetta settimana rossa. I fenomeni storici non nascono dalla mattina alla sera, non spuntano come funghi, sono il risultato di sviluppi che talvolta, che molto spesso, datano da anni. È un clima problematico, difficile, quello che Panza ricostruisce nei suoi libri. Però lo fa spesso a 360 gradi. Panza ha un grande merito, a parere di chi, a mio parere, insomma. Ha il merito di aver detto: io sono un uomo di sinistra da sempre e tale mi considero. Sarei stato, se fossi stato grande negli anni della resistenza del partigianato, sarei stato dalla parte dei partigiani. Questo però non mi impedisce di dire che anche all'interno della resistenza ci sono state delle zone grigie. I libri di Panza, secondo me, andrebbero analizzati non nella prospettiva dei mesi dell'occupazione tedesca, quando l'Italia è rimasta divisa in due per 20 mesi, appunto, ma andrebbero analizzati dagli anni immediatamente antecedenti all'affermazione del fascismo fino agli anni della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono state zone del nord Italia in cui la cosiddetta guerra civile, a parere di alcuni storici, non è cominciata nel 43, ma è cominciata nel 20, nel 21, nel 22. È cominciata con le sopraffazioni degli agrari fascisti, è cominciata con atteggiamenti molto discutibili del cosiddetto patronato, perché il fascismo ha trovato la strada spianata non solamente per la debolezza istituzionale della monarchia e l'indecisione del re, ma anche per il connubio tra gli agrari del sud e gli industriali del nord. Sia chiaro, non sto giustificando le stragi post 25 aprile, perché la violenza non trova giustificazione, mai. Ma il clima è un clima che si era creato, che qualcuno aveva creato, che era durato per 22-23 anni e poi aggravato in maniera pazzesca dall'occupazione, dai mesi dell'occupazione tedesca. Quando si parla di certi fenomeni bisogna stare molto attenti a non estrapolare la singola pagina del libro, sia esso di Panza, di Montanelli o di Giorgio Bocca, per citare tre monumenti del giornalismo italiano che hanno dato molto alla divulgazione storica. Veniamo ai fatti sociali. Allora, io personalmente nei libri di Panza non mi pare di aver trovato alcun richiamo alle violenze, diciamo così, di casa nostra. Avevo sentito dire delle violenze qui ad Anagni, ma francamente non ne ho contezza e non saprei neppure spendere una parola sulle circostanze in cui queste violenze sono maturate. I giovani che hanno beneficiato dell'amnistia di Togliatti. Dell'amnistia di Togliatti hanno beneficiato tutti. Hanno beneficiato anche i fascisti di Salò. Tanti autorevoli esponenti della Repubblica di Salò, non facciamo nomi, li conosciamo tutti, anche sottosegretari di Salò, che hanno beneficiato dell'amnistia, sono poi tornati sui banchi del Parlamento italiano, quindi questa Repubblica così cattiva e così comunista ha dato possibilità a chi, perché in Italia fascisti se lo sono stati un po' tutti nel ventennio, è inutile negarlo, ma quando si è arrivati a Salò e quando si è trattato di mettersi il fucile sulle spalle a fianco ai tedeschi, non è che fossero rimasti in tanti. Nonostante tutto, questa Repubblica italiana cattiva e comunista ha dato la possibilità anche ad autorevoli esponenti della Repubblica di Salò di sedersi in Parlamento e di svolgere la propria attività politica, non voglio dire in tutta tranquillità perché sarei un bugiardo, però sono andati in Parlamento. Cioè in Italia chi ha combattuto in armi il ritorno della democrazia ha poi fatto attività politica a livello, ad altissimi livelli. Non voglio citare un esponente politico che conosciamo tutti, abbiamo già capito chi è. Cito per esempio Filippo Anfuso, che è stato ambasciatore di Salò a Berlino e negli ultimi mesi ministro degli esteri, per pochi più che mesi, giorni, e che ci ha lasciato un libro molto bello di memorie, dal Lago di Garda, da Piazza Venezia al Lago di Garda. Filippo Anfuso è addirittura morto in Parlamento di infarto mentre stava tenendo un discorso. Quindi tranquillamente i fascisti di Salò sono andati a sedersi in Parlamento, quindi questa dell'amnistia hanno beneficiato tutti. Altra osservazione, ultima osservazione che voglio fare: purtroppo all'indomani delle guerre civili, e questo non giustifica nulla, stiamo parlando del fenomeno storico, del fatto accaduto. All'indomani delle guerre civili, è stato sempre così, o delle lotte di liberazione, nei paesi dell'Africa del Nord che escono dal colonialismo all'inizio degli anni 60, per esempio l'Algeria, ci sono stati tantissimi episodi analoghi a quelli del post aprile 1945. Tant'è vero che moltissimi algerini, i più, per così dire, compromessi con l'occupazione francese, sono stati costretti, quando hanno potuto, ad andarsene in Francia. È drammatico dirlo perché, ripeto, la violenza non trova giustificazioni. Ma l'uomo sottoposto a pressione, sottoposto ad angherie per anni, per decenni, quando poi la ruota vede girare, per così dire, la ruota della storia o della vendetta a proprio favore, diventa spesso incontrollabile. Ma queste osservazioni e tutti i libri che possono essere scritti in chiave revisionistica non possono vanificare quello che impropriamente potremmo chiamare il messaggio della Resistenza, che è un messaggio antitotalitario. È il messaggio del ritorno alla democrazia. È il messaggio che è stato suggellato nella nostra Costituzione. Bene, noi concludiamo questo approfondimento con Enrico Zuccaro. Avremmo voluto affrontare tanti e tanti problemi, ma naturalmente ci ripromettiamo di rincontrarlo e di averlo gradito ospite qui presso i nostri studi. Intanto, prima vi dicevo che appunto ci sarebbe tornata utile questa notizia che abbiamo dato prima, che Enrico Zuccaro è anche consigliere comunale di opposizione presso il comune di Supino. Perché diciamo questo? Perché appunto Enrico Zuccaro darà vita, lo aveva un po' anticipato lui stesso poco fa, darà vita ad una iniziativa di forte stigmatizzazione di comportamenti tenuti in occasione delle celebrazioni del 25 aprile a Supino dall'assessore alla cultura di quel comune, della giunta guidata da Alessandro Foglietta. Ecco, Enrico, ci vuoi parlare di questa tua iniziativa? Naturalmente ponendo in premessa quello che è il comportamento a tuo avviso sbagliato dell'assessore alla cultura del comune di Supino, che ha appunto suscitato questa tua viva contestazione. Allora, intanto la contestazione non è solamente mia, ma è di una parte dell'opinione pubblica supinese che non necessariamente si riconosce in quelle che sono le mie posizioni politiche e diciamo così consiliari. Il fatto in sintesi estrema è questa, che la mattina del 25 aprile, nel corso delle celebrazioni appunto di questa ricorrenza organizzata dal Comune, quando c'è stato il discorso ufficiale dell'assessore alla cultura e vice sindaco, l'amico Nardecchia, che credo abbia parlato molto, molto in buona fede, senza, mi auguro, senza alcuna, come dire, senza alcun disegno di carattere storico-politico. Ma Nardecchia ha tenuto un discorso in cui non ha mai pronunciato la parola resistenza, mai la parola partigiano, ed ha sottolineato i 20.000 morti della resa dei conti. Io, ovviamente, insieme ad altre persone, ho notato questo passaggio, ho notato questa carenza di approfondimento, secondo me, e l'ho, diciamo così, stigmatizzata in un volantino che distribuirò nei prossimi giorni. La cosa mi è dispiaciuta perché? Mi è dispiaciuta perché intanto Nardecchia è un esponente dell'UDC e sappiamo quanto la parte cattolica abbia contribuito, abbia dato alla resistenza, parte cattolica a cui l'UDC, alle cui posizioni l'UDC si richiama. Mi è dispiaciuto perché chi riveste una carica politica ed istituzionale non può ignorare la matrice di certi avvenimenti. Non si può celebrare la resistenza senza parlare dei partigiani. Ma c'è di più. Nardecchia non ha assolutamente fatto cenno alle migliaia di giovani alleati, quindi americani, canadesi, inglesi, neozelandesi, indiani ed anche ebrei, perché ben poche persone sanno, il fatto è stato forse poco diffuso anche a livello storico, poco fatto conoscere, che la brigata ebraica che parte dalla Palestina e viene a combattere in Italia, prima di andare a coprirsi di gloria nel vero senso del termine nel Ravennate, si è fermata qua in Ciociaria a Fiuggi. Cioè Fiuggi è stata la stazione di questo corpo di spedizione, di ragazzi ebrei che cominciavano a sapere quale tremenda sorte, quale destino assurdo avevano avuto tanti loro correligionari. Questo contributo non può essere disconosciuto la mattina del 25 aprile. Non si pretende la lezione di storia, né si può aver paura del revisionismo. Però, attenzione, chi affronta un discorso ufficiale deve necessariamente tributare un omaggio. Ripeto, a chi ha sacrificato la propria vita per ridarci la libertà. Bene, ci tenevamo anche noi a sottolineare questo fatto e a dare notizia anche alle nostre amiche e ai nostri amici di questa iniziativa, che di questo volantinaggio che appunto verrà stato promosso da Enrico Zuccaro e dai suoi colleghi di minoranza in Consiglio Comunale. Ricordiamo quello che abbiamo già la notizia, che abbiamo riportato poc'anzi, che ieri un gruppo spontaneo di giovani e di adulti, di donne e di uomini hanno dato vita ad un'iniziativa privata che è consistita nella deposizione di una corona d'alloro presso il monumento ai caduti in onore appunto di chi ha combattuto per la libertà, visto, e questo in aperta polemica con l'amministrazione comunale di Anagni, che non ha mai inteso, diciamo, dare vita ad iniziative diciamo visibili anche a messaggi di commemorazione di questa iniziativa. Ricordiamo anche che nelle settimane scorse su Facebook, sul famoso sul tanto così famoso social network, sono apparse le fotografie dell'assessore Roberto Verzi, che appunto era in pellegrinaggio di fronte alla cripta di Benito Mussolini a Predappio, a rendere onore alla Duce con tanto di saluto romano. Quindi forse sarebbe stato necessario celebrare il 25 aprile in modo ufficiale da parte delle nostre istituzioni, anche un po' per esorcizzare questo gesto. Noi ricordiamo che la cronaca di quella e anche la rassegna, la documentazione fotografica di questo evento che si è tenuto ad Anagni ieri da parte di questi cittadini di Anagni è appunto sul nostro sito www.radioernica.com. Poco fa Aurelio ci dava notizia che in nemmeno 24 ore il sito e questo servizio è stato visitato da oltre 400 persone, per cui noi ti diciamo anche, Enrico, non avere preoccupazione del fatto che siamo arrivati in questo momento a 500 visite, mi dicono, quindi non avere preoccupazione, Enrico, che questo problema interessa molto i nostri ascoltatori. Tu prima ti preoccupavi, dicevi forse sto annoiando, no, le nostre amiche e i nostri amici sono molto interessati a questo problema. Bene, Enrico, noi ti salutiamo, ricordiamo appunto le ultime due fatiche di Enrico Zuccaro, Argento sulle dune del 2005 e I miei passi, la mia vita, due libri appunto che ripercorrono la storia di quegli anni. Scritti appunto da Enrico Zuccaro, editi dalla Bianchini Editore. Enrico, se qualche nostro ascoltatore o qualche nostro appassionato della rete volesse appunto avere, diciamo, il piacere di leggere, di consultare questo libro, di acquistarlo, come è possibile farlo questo? Allora, i libri sono disponibili presso l'autore e anche presso l'editore, però può tranquillamente contattarmi, non ci sono problemi, casomai anche tramite Radio Ernica. Io, prima di lasciare gli ascoltatori, voglio ringraziare Radio Ernica e voglio commentare questo atteggiamento, diciamo, di qualche amministratore sociaro, proprio con la frase che ho citato prima. I fatti storici non cessano d'esistere perché non se ne parla. La resistenza è e sarà un elemento fondante della storia repubblicana, per cui qualcuno può anche decidere di non parlarne, ma nel cuore degli italiani, di tanti italiani, di tantissime persone, la resistenza è qualcosa che esiste e qualcosa che continuerà ad esistere, indipendentemente da fattori anagrafici. Grazie. Io volevo salutarti, Enrico, auspicando magari un tuo ritorno qui a Radio Ernica. Noi da tempo ci ripromettiamo di avere qui nei nostri studi, e c'è anche una sua disponibilità, di una persona di Anagni, Magno Fabrizi, Magnuccio, conosciuto ad Anagni, Fabrizi, che è stato un protagonista della resistenza qui ad Anagni, è una persona che ormai ha diversi anni, portati molto bene, e ha sempre detto che sarebbe disponibile a ripercorrere quel periodo della storia. Quindi ci farebbe piacere magari se riuscissimo a combinare questo incontro e magari continuare questa discussione che abbiamo aperto oggi. Grazie. Bene, benissimo, allora noi ringraziamo Enrico Zuccaro della sua partecipazione a questa trasmissione, avevamo annunciata una trasmissione, lo dico a voi che ci ascoltate tramite FM, che potrete rivedere anche sul nostro sito www.radioernica.com. Buonasera. Bene, allora siamo tornati solo in FM perché abbiamo terminato la registrazione. Quando si registra e si parla in diretta, insomma, sappiate che qui non state parlando con professionisti del mezzo audio e video. Insomma, tutto sommato restiamo delle persone che per hobby si divertono in radio, e quindi forse qualche imprecisione, qualche piccolo problema è dovuto anche a questo, vero Peppe? Beh, sì, anche senza la telecamera chissà perché uno si sente più sciolto. Sì, c'è anche una componente che è l'emozione, appunto, che diciamo prende anche noi che siamo forse un po' più abituati a maneggiare questi mezzi. Bene, allora una breve pausa musicale. Mary è nuovamente sola e senza dire una parola esce con la faccia incontro al vento, cambia ancora di

se cado una volta cadrò e da terra da lì m'alzerò. C'è chi ormai che ho imparato a sognare, non lo smetterò. Sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'era chi era capace a sognare e chi sognava già. Bene, parte finale della trasmissione, allora torniamo in diretta, una bella trasmissione quella di oggi, devo dire, ce ne fossero di spazi di questo genere. Siete sempre sintonizzati su Radio Ernica, Marco Tagnaboschi a tenervi compagnia insieme a Giuseppe Russo per gli ultimi 10 minuti che dedichiamo ad una panoramica sull'informazione locale. Bene, sì, partiamo quindi con l'informazione di Ciociaria oggi, in particolare con le principali notizie in prima pagina. Non ce ne sono molte a dire la verità, perché questa mattina Ciociaria oggi dedica ampio spazio anche in prima pagina a commenti su quelle che sono state le vicende della Pisana, relative alla formazione della nuova giunta di Renata Polverini. Un articolo molto polemico sull'esclusione di esponenti frusinati l'esclusione appunto dall'amministrazione regionale, e anche un articolo di commento intitolato Ciociaria mortificata, un articolo a firma di Detector, questa firma famosa e anche autorevole del quotidiano Ciociaria Oggi, che noi in genere riferiamo ad un esponente importante di questo quotidiano. Nel corso di questo articolo viene stigmatizzato fortemente anche il comportamento dell'eurodeputato del PDL Alfredo Pallone. Viene molto maltrattato da Detector, colui che appunto fu l'uomo di fiducia di Antonio Tajani. Una importante notizia ci arriva anche da Ciociaria oggi, perché appunto 3 camion del servizio raccolta sono stati bloccati dopo controlli effettuati nell'impianto di Colfeltivi. Questo è quello che ci riporta Ciociaria oggi. I mezzi provenivano da Alatri, dall'area Lepina e dal centro di trasferenza di Piglio. trasportavano rifiuti con tracce di radioattività e sono stati bloccati dalla SAF all'ingresso dell'impianto di Colfelice dopo i test radiometrici. Si tratta di un camion del servizio raccolta di Alatri, uno della ditta che serve l'area Lepina, uno del centro di trasferenza di Piglio. Ieri il vicepresidente della provincia ha indetto una riunione operativa. Poi ancora un'altra notizia di cronaca, appunto, che ci porta a Isola Liri, lavoro nero e ristorante chiuso e multato, poi gli approfondimenti all'interno. Poi si parla della città di Veroli e di una badante violenta, un video shock che addirittura è stato messo in rete su internet. Ancora a Frosinone una notizia di cronaca nera: l'inquilino di un alloggio popolare nel mirino dei ladri, lunedì l'ennesimo raid, questa volta gli è stata rubata la caldaia. Ma veniamo alle principali notizie anche della nostra città. Una notizia che viene riportata in prima pagina e riguarda la Videocon. Esplode infatti la protesta nella sede INPS di Frosinone. Le maestranze VDC hanno fatto irruzione nella sede INPS gridando "vogliamo essere pagati". La cassa integrazione non è stata erogata e la mobilitazione ha preso il via dalla prefettura. Rassicurazioni sono state date appunto dal direttore dell'INPS Bruno Liguori, che è sceso a parlare con le infuriate maestranze, appunto spiegando che i pagamenti di febbraio sono stati autorizzati 20 giorni fa all'INPS, infatti risultano già accreditati e dovrebbero arrivare a giorni. Quindi questo le rassicurazioni del direttore dell'INPS Bruno Liguori alla manifestazione a partire dalla prefettura. Appunto hanno preso parte tutte le organizzazioni sindacali e c'è stata anche la visita gradita di due esponenti, degli unici due esponenti politici intervenuti sono stati i due principali esponenti del Partito Democratico Provinciale, il segretario provinciale Mauro Boschini e il consigliere regionale neo eletto Francesco Scalia. Quindi queste appunto le principali notizie. Inoltre questa mattina Sociaria Oggi riporta un ampio approfondimento sull'emergenza Carflaff e ad Anagni. La verità sul Carflaff titola un approfondito articolo di Daniela Pesoli. Dopo la protesta delle associazioni cittadine, la Marangoni Tair va al contrattacco. Ci parla della quantità di rifiuti trattati, della sicurezza dell'impianto e delle prospettive del sito. Si fa riferimento al fatto che praticamente è vero, risponde al vero, che questo possa essere quello di Carflaff ad Anagni l'unico impianto d'Europa, ma la Marangoni esclude che il fatto che il Carflaff non venga bruciato in nessuna parte d'Europa. In effetti, dice Marangoni Mind, il Carflaff viene bruciato, ma non viene bruciato in sicurezza, perché spesso quando viene bruciato come rifiuto solido urbano. La cosa desta forti perplessità, ma insomma anche allarme, considerando il tipo di rifiuto. Poi la Marangoni appunto sostiene che questa attività è un'attività che risponde alle prerogative espresse dal governo, che intende, anziché conservare diciamo in discarica questo rifiuto definito pericoloso, intende appunto da come direttive quella dell'incenerimento, che appunto può anche produrre energia, e che la Marangoni è stata proprio individuata per il know-how che appunto si porta dietro, diciamo, rispetto alle tecnologie e alle esperienze già avute dal Marangoni nel campo dell'incenerimento. Infine un richiamo a quella che è un'importante attività economica detta della Marangoni, che non può essere slegata da quella relativa alla produzione di pneumatici. Se, dice Marangoni, non dovesse essere autorizzato questo impianto, questo avrà forti ripercussioni su quella che è l'attività produttiva anche dell'incenerimento, quindi con grave pregiudizio e grave danno sia per lo sviluppo economico che per quello occupazionale della zona. Il messaggio ci sembra piuttosto chiaro. Credo che però queste dichiarazioni e queste esternazioni che sono state anche pubblicate sul sito che la Marangoni appunto ha predisposto, credo che incontreranno forti contestazioni anche da parte dei comitati e delle associazioni che sabato scorso hanno dato proprio vita ad una importante manifestazione alla quale abbiamo partecipato anche noi e sulla quale abbiamo, diciamo, molto discusso e effettuato grandi approfondimenti. Bene, queste le principali notizie che ci arrivano da Ciociaria oggi sulla nostra provincia e sulla nostra città. Passo la linea a Marco. Sì, io volevo concludere questa chiacchierata così facendo riferimento ad una chiacchierata che io stamattina ho fatto con una ragazza, una giovanissima signora, diciamo, che abita nella zona dell'Antico Lana, vicino al Casello, diciamo, e mi diceva, questo ovviamente non, come dire, lo inserisco questo argomento ma senza entrare nel merito delle motivazioni per cui questo avviene. La signora mi diceva: stiamo vendendo casa, stiamo andando via da quella zona, e mi diceva che ha forti problemi, proprio, come dire, visivi, nel senso che appena apre la finestra vede una coltre di polvere nera. Dice: sono costretta a asciugare i vestiti all'interno dell'abitazione anche d'estate, perché non riesco praticamente a fare questa attività all'esterno, perché praticamente su questi indumenti si deposita una coltre di polvere nera, e quindi dice: stiamo vendendo casa, stiamo andando via da lì. Stiamo acquistando casa in un'altra zona di Anagni. Questa, sì, così, e questa purtroppo non è una testimonianza isolata, no, ma è la testimonianza e l'esperienza di molti residenti della zona. Bene, allora io direi ci fermiamo qui. Sì, ricordiamo soltanto, ecco, la notizia che è apparsa anche oggi sui quotidiani locali, che riguarda sempre la vicenda e le polemiche relative alla formazione della giunta regionale. Oggi il sindaco di Anagni si è lasciato andare appunto ad un'esternazione, come possiamo dire, abbastanza stravagante. Ha appunto introdotto un discorso nuovo per la nostra provincia di Frosinone. Ha sostenuto che occorre iniziare un percorso anche in collaborazione con altri sindaci del PDL perché si arrivi ad una secessione, ad un accorpamento ad un'altra regione. Quindi noi pensiamo, insomma, che questa non so da dove tragga appunto le motivazioni anche tecnico-giuridiche per poter mettere in atto questa iniziativa. Insomma, comunque, se il nostro sindaco è così desideroso, per esempio, di annettere una parte della nostra terra alla Campania, beh, possiamo dire che ha dato vita alla nascita di un nuovo movimento politico, la Lega Pummarola. Noi siamo una terra di grande storia, di grandi tradizioni, ma come vogliamo concludere? Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato, scordammoci passato, simmo Napoli paese. Allora, con questa nota partenopea chiudiamo questa trasmissione. Probabilmente quella del sindaco è stata semplicemente una provocazione, però insomma, voglio dire, una provocazione che lascia il tempo che trovo. Voglio dire, quando si aderisce ad una coalizione, come dire, bisognerebbe anche accettare alcuni risvolti che in questo caso sono estremamente negativi, credo, per la nostra provincia, ma questo non si può addebitare chiaramente a chi di questa coalizione non faceva parte. Bisognerebbe anche fare un discorso di questo genere, ma è un discorso troppo lungo, siamo in chiusura e quindi ci fermiamo qua. Bene. Allora, grazie di averci ascoltato, appuntamento a domani. Buonasera.